9 in punto. Di nuovo buongiorno, gentili ascoltatori, da Simone Spezia. Ci chiedete via Twitter, stiamo utilizzando l'hashtag 9 in punto, 9 scritto a lettere, di togliere il gatto che era di Oscar Giannino. Lo faremo, stiamo ragionando su quale animale mettere, insomma. Il cane mi sembra di darmi un po' troppe arie, tutto sommato. Parliamo oggi però di un tema che spesso è stato affrontato da questi microfoni a quest'ora, ossia parliamo di fisco. Perché? Perché è evidente che c'è una questione fiscale, tante volte appunto se ne è discusso da questi microfoni, mai forse abbastanza sottolineata, e che forse finalmente entra in maniera prepotente all'interno di una campagna elettorale. C'è una questione sul piatto: come fare a ridurre le tasse fondamentalmente e come reperire le risorse per ridurre queste tasse. Ebbene, l'idea di una patrimoniale sembra farsi strada, e farsi strada in maniera sempre più possente all'interno delle forze politiche. Perché? Perché, come vi dicevamo prima, nella cosiddetta agenda Monti c'è scritto, si parla esplicitamente di una patrimoniale, ne parla esplicitamente anche il Partito Democratico insieme a sé. Anzi, ci sono addirittura delle ipotesi sulle quali stanno lavorando, ci sono delle cose che abbiamo trovato oggi, che ci sono oggi su Panorama da questo lato. Questione fiscale naturalmente che permane. Considerate che oggi il Sole 24 Ore fa un'apertura ampia sul nuovo redditometro che è arrivato, un'esclusiva del Sole 24 Ore. Sono tutte le 100 voci che il fisco andrà a controllare per verificare se siamo congrui con quello che spendiamo, se i nostri redditi corrispondono a quello che spendiamo. Insomma, io un po' di paura, in tutta sincerità, pur essendo un lavoratore dipendente e che dichiara tutto, eventuali uscite extra, sinceramente me la sono presa. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure appunto l'hashtag su Twitter è 9 in punto, col 9 scritto a lettere. Saluto innanzitutto Francesco Boccia, deputato e coordinatore delle commissioni economiche del gruppo PD alla Camera. Buongiorno. Buongiorno a voi. Francesco Boccia, che sappiamo che deve prendere un treno a un certo punto, noi lo terremo in linea finché questa linea reggerà, perché poi a un certo punto in bocca, insomma, gallerie, deve attraversare l'Appennino, e quindi non sappiamo quanto reggerà la linea. Saluto anche Michele Boldrin, economista, promotore, cofondatore di Fermare il Declino. Buongiorno Boldrin. Buongiorno. Si scherzava stamattina proprio su Twitter, dicevo, insomma, io non sono il tipo da urlare stato ladro, se poi dopo lo vuole fare lei, insomma, invece di Giannino è liberissimo di farlo. E dovremmo avere anche Nicola Rossi, economista e senatore del gruppo misto. No, non è ancora arrivato, lo avremo più avanti. È legato Nicola Rossi in questo momento ad Italia Futura e quindi sostanzialmente alla lista Monti. La prima domanda è per Francesco Boccia ed è una domanda di pura cronaca, perché oggi Panorama ha la sua apertura, la sua copertina dedicata proprio alle ipotesi di patrimoniale sulle quali state lavorando voi. Una patrimoniale ulteriore sulla casa, cioè un IMU, un appesantimento dell'IMU sulle case che valgono di più, in sostanza, con l'ipotesi appunto di riduzione o di taglio in assoluto per le case che valgono di meno, cioè un rafforzamento dell'IMU per le case sopra il 1.200.000 euro di valore. Ci conferma questa ipotesi? Guardi, io penso che innanzitutto su questo tema non bisogna, diciamo, approcciarsi con demagogia, perché veniamo da 20 anni di meno tasse per tutti e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Ora ha iniziato anche il Presidente del Consiglio Monti a promettere agli italiani che abbasserà le tasse. Meno di un mese fa il governo, con il sostegno di PD e Lega, ha respinto una serie di nostre proposte, delle quali, se vuole, parliamo. Penso che la leva fiscale sia l'unica utilizzabile in questo momento per redistribuire, per riequilibrare il carico tra lavoro, impresa e rendite, e parliamo di di patrimoniale, se vuole, va dentro un perimetro che non deve farci scadere la demagogia spicciola, perché non si va da nessuna parte. Chi in Italia paga le tasse ne paga tantissime e deve pagarne meno. Dopodiché dobbiamo metterci d'accordo su cosa intendiamo per carico fiscale sul lavoro impresa e sul rendite in generale, non solo rendite finanziarie. Ora, sul patrimonio, noi vorremmo tornare al punto di partenza che è stato spazzato via dalla demagogia del 2008, e cioè quando con l'intervento del governo Prodi fu consentita, attraverso meccanismi semplici che sono quelli delle detrazioni, di non pagare l'ICI sulla prima casa fino a 306 euro. Questo meccanismo consentiva di esentare oltre il 45% degli italiani al pagamento dell'ICI sulla prima casa, che, come è noto, faceva riferimento in una fase in cui si stava finalmente organizzando la riorganizzazione del catasto, consentiva alla stragrande maggioranza dei quartieri periferici e delle aree degradate del nostro paese di avere l'esenzione ICI. Ovviamente questo non era possibile per via Monte Napoleone, via Condotti, senza per questo discriminare chi vive in via Condotti, via Monte Napoleone. Però non semplifichiamo troppo, Boccia, mi scusi, perché non è che esistono solamente via Monte Napoleone e via Condotti. Magari c'è gente che 30 anni fa ha comprato casa in una zona semiperiferica che adesso è diventata una zona semicentrale, magari gli vale 1.200.000 euro, ma magari questi non è che hanno i soldi. Secondo i calcoli che leggo su Panorama, si potrebbe partire addirittura dagli 8.400 euro all'anno per una casa che vale 1.200.000 euro. Insomma, è assolutamente falso. Guardi, non so chi abbia fatto questi calcoli, mi sembrano calcoli da propaganda preelettorale. Fanno il paio con chi dice che passerà le tasse dal mese prossimo. Io le ribadisco la posizione del Partito Democratico, cioè quella di esentare attraverso meccanismi di detrazioni il pagamento dell'IMU sulla prima casa alle fasce più basse, a coloro che non possono permettersi di pagare l'IMU sulla prima casa. Ribadisco che il governo precedente ha esentato me, e non ne avevo bisogno, come una parte di italiani, probabilmente anche lei, dal pagamento dell'ICI per 3 anni. Quel mancato gettito è evidente che io, come tutti gli italiani che hanno avuto quell'esenzione, lo stiamo pagando ora con un IMU che vale il doppio di quello che valeva l'ICI nel 2008, nel 2009 e nel 2010. Se non diciamo questo, non si capisce di che cosa stiamo parlando. Noi non abbiamo fatto una proposta come quella che descrive Panorama. Noi stiamo lavorando su meccanismi che faranno pagare l'IMU sulla prima casa solo alla cosiddetta fascia più alta, e vorremmo esentare, ovviamente i sindaci avranno l'autonomia di esentare una serie di aree, di quartieri, in funzione del peso di quel quartiere sul bilancio dell'ente. Ma quindi l'idea sarebbe di collegarla al reddito anche, Boccia, o no? Perché poi là ci sono... Innanzitutto, guardi, si parte dal valore e quindi si esentano i valori fino al 1.200.000, e poi si collega al reddito, perché può anche esserci un caso su 10 simili a quello a cui fa riferimento lei, di qualcuno che ha abitato la casa ma non ha reddito e non è in condizione di andare avanti. Ma, se mi permette, è una condizione speciale quella, non è la condizione ordinaria. Vorrei su questa ipotesi Michele Boldrin, naturalmente, lo ricordiamo ancora una volta, economista, promotore di Fermare il Declino. Poi vedo che l'argomento accende, perché ci sono già diverse telefonate in linea, e tra poco prendiamo gli ascoltatori. Allora, Boldrin. Io ho sentito solo in parte la risposta di Boccia, perché arriva disturbata, non so se l'hai sentita al 100%, quindi se mi sbaglio nell'interpretazione di quello che ha detto mi corregga. Ma io trovo un po' divertente l'affermazione, alla sua domanda di come riduciamo le tasse, la risposta è stata: vabbè, aumentiamole. E, d'accordo, io pensavo che la risposta naturale fosse: cominciamo a tagliare alcune spese, poi vediamo di ridisegnare il sistema fiscale in modo da ridurre le tasse, laddove più fanno danno. Quindi la mia risposta alla sua domanda, poi commento le affermazioni di Boccia, è cominciamo a tagliare le spese, cosa che nessuno dice, neanche quelli che anche in questa nuova campagna elettorale, nei loro documenti, nelle loro agende, hanno promesso di tagliare tasse. La mia risposta invece è questa, quindi se vuole potremmo discutere di quali spese tagliare, cercando di essere così un po' coerenti e non demagogici, perché mi sembra che l'idea in un paese come questo, che la soluzione al problema fiscale consista nel non ridurre la spesa, mantenere la spesa pubblica. Boldrini, mi scusi, una questione tecnica, se riesce a tenere la bocca lievemente più lontana dalla cornetta, perché sennò ci va un po' in distorsione, prego. È troppo vicino, d'accordo. Dicevo, se l'idea di va bene così? Perfetto. Se l'idea di risolvere la questione fiscale consiste nel mantenere la spesa così com'è e poi giocare con le tasse aumentandole e pensando che la soluzione sia attraverso l'IMU, da quello che sento, attraverso un'altra patrimoniale, vedremo, perché poi bisogna specificare dove le patrimoniali si vogliono fare, su quali ricchezze e con l'idea di raccogliere che cosa. Aumentare la pressione fiscale, allora direi che andiamo decisamente male. L'interlocutore che ha parlato prima di me è stato molto ambiguo, quindi io non riesco a capire cosa abbia in mente. Dice, stanno studiando e hanno come punto di riferimento le case che valgono da 1,2 milioni in più. Va bene, non credo che da quello tipo di tassazione, per quanto dannosa essa sia, si possa ricavare molto. Quindi io francamente sposterei l'attenzione alla questione dei tagli delle spese. E vorrei capire chi le vuole tagliare. Noi per parte nostra, fino al manifesto da cui poi è nato il movimento, di cui poi alla fine è nata anche la lista elettorale chiamata a fare, che presenteremo, che Oscar guida, abbiamo fatto le proposte precise. Noi pensiamo che si possa molto ragionevolmente, in maniera non recessiva, tagliare in parallelo, nell'arco di una legislatura, la spesa pubblica di circa 6 punti di PIL, se vuole poi andiamo nelle voci concrete che abbiamo in mente. In parallelo tagliare di circa 5 punti la pressione fiscale, e in questo secondo caso pensiamo che la pressione fiscale da tagliare, non da aumentare, sia soprattutto quella sul lavoro, sui redditi al lavoro, e in particolare sui redditi al lavoro sia bassi che alti, cioè in maniera uniforme, e l'IRAP è la tassazione, quindi sull'attività d'impresa, non sul reddito d'impresa, ma questa tassa un po' folle che fondamentalmente tassa le imprese perché esistono e perché assumono lavoro e cercano di produrre valore aggiunto. Questa è la nostra proposta. Il resto, appunto, ripeto, mi pare demagogia e mi pare forte, incredibile demagogia sentire che siccome in questi 20 anni si sono tagliate le tasse, credo sia quello che ho sentito dire prima, allora siamo arrivati ai disastri che siamo arrivati. In questi 20 anni non solo non si sono tagliate le tasse, si sono drammaticamente aumentate e assieme ad esse si sono aumentate le spese. Per questo siamo arrivati alla situazione di al punto nel quale siamo. Tra l'altro segnalo che sono entrate in vigore, già ce lo scrivete anche via SMS al 349-238-6666, sono entrate in vigore, stanno per entrare in vigore nuove imposizioni a partire dalla nuova tassa sui rifiuti. Tutti i dettagli tra l'altro su questa nuova tassa sui rifiuti li trovate se andate nei nostri podcast o sul nostro sito, e vi potete, questo dal punto di vista puramente di servizio, ecco, riascoltando Salvadanaio, la puntata di Salvadanaio di ieri, che proprio di questo si è occupata. Devo dire la verità, Boccia, ho colto un'ambiguità anch'io. E l'ambiguità è, non ho capito se la volete legata al reddito, questa nuova IMU che state immaginando, oppure no, perché là naturalmente c'è un rischio abbastanza forte, che è quello di non prendere gli evasori, evidentemente. No, scusi, io ho fatto una premessa, se dobbiamo discutere seriamente discutiamo, se dobbiamo fare demagogia spicciola diciamo ci chiariamo prima, così evitiamo anche di andare avanti. Lei mi ha fatto una domanda precisa rispetto ad una sciocchezza scritta da Panorama su quale tipo di patrimoniale è oggetto della discussione e qual è il carico dell'IMU eventuale sulla nostra proposta. Punto. Se Boldrin ama fare demagogia alle 9:25 del mattino, reinterpretando parole che non ho detto, può fare, ma senza di me, perché io non ho mai parlato dei temi che lui ha posto in questo momento ai radioascoltatori. Che il taglio della spesa sia una priorità è scolpito. inserito nelle proposte del Partito Democratico. Lei non mi ha fatto questa domanda, mi ha esplicitamente fatto una domanda rispetto al tema posto da Panorama. Oppure ho capito male io? Sì, sì, io su quella di Panorama e poi le ho aggiunto da quando allora, lei ha preso il taglio delle tasse, mi scusi, il taglio delle tasse, siamo d'accordo, il taglio della spesa è evidente che nella proposta del Partito Democratico è scolpita e non siamo stati certo noi a metterci di traverso, anzi negli ultimi provvedimenti consiglio a Boldrin di guardarsi i tagli fatti per oltre 35 miliardi su una serie di capitoli di bilancio che non fanno certamente riferimento a welfare, ma è tutta spesa pubblica e improduttiva. Siamo tutti d'accordo, penso, la discussione questa mattina è se la leva fiscale è uno strumento per riequilibrare o meno, e confrontiamoci su questo. Se poi vi vogliamo confrontarci su tutto il programma economico del Partito Democratico o di fermare il declino del PDL o dell'agenda Monti, confrontiamoci su questo. Però, assegnare ad alcuni la medaglietta di essere i tagliatori della spesa e ad altri no, mi sembra oltre che scorretto. Guardi, qua non si stanno assegnando medagliette, qua nessuno assegna medagliette. Se sta parlando con me, no, mi scusi, mi fermo. Qua è stata semplicemente la risposta di Boldrin, qua non si assegnano medagliette di nessun tipo e non sto qua ad assegnare medagliette, insomma. Semplicemente Boldrin ha deciso di rispondere sul tema della patrimoniale in modo. Però partendo da un tema che non è oggetto della nostra conversazione, io ho risposto ad una sua domanda. Il taglio della spesa, soprattutto della spesa improduttiva, penso sia nel DNA delle forze politiche, e il PD ne ha fatto una bandiera. Ribadire un tema che non è oggetto della nostra conversazione va bene se si è in campagna elettorale. Se questa è una conversazione della campagna elettorale, faccio in campagna elettorale. Io gliel'avevo premesso, l'ho fatto la cornice, ho fatto riferimento alla inedita dichiarazione di Monti che ci dice che abbasserà le tasse, e un mese fa ha respinto un nostro emendamento che ci consentiva di riequilibrare l'imposizione fiscale sul lavoro rispetto alle rendite, e ricominciamo. Sa, finora lo faceva solo Berlusconi, se ora ci si mettono anche Monti e Boldrin non penso che andremo lontano. Quindi insomma, diciamo, la discussione si fa tosta. Io inizierei a prendere qualche telefonata nel ribadire Boccia ancora una volta, scusi, giusto per chiarezza, perché dato che mi sento abbastanza coinvolto dalla cosa, essendo il conduttore della trasmissione, che qua non è che si assegnano medagliette, qua semplicemente ho chiesto una valutazione a Boldrin, ha dato la sua valutazione. Sia chiaro che la discussione è tra voi, e ripeto, qua non si assegnano medagliette. Luca ci chiama da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che la patrimoniale c'è già, le patrimoniali ci sono di già, l'IMU è una patrimoniale, una parte della TARES è una patrimoniale, l'imposta di bollo, la chiamano imposta di bollo, è una patrimoniale, poi secondo me anche all'interno dell'imposta di registro si possono vedere delle patrimoniali mascherate, nessuno fa mai il calcolo di quanto incidono di già queste patrimoniali, non è che arrivano già all'1% del valore del patrimonio, per cui non si può andare oltre. Grazie Luca per la domanda. Prendiamo anche quella di Marcello che ci chiama da Pavia. Buongiorno Marcello. Sì, buongiorno, grazie. Io volevo ricordare una cosa, no? Che in estate, a luglio, si parla prima del governo Monti, quindi parliamo del 2011, tutti mi sembravano d'accordo nel dire che si dovevano fare due interventi forti per l'Italia. La prima era la riforma delle pensioni e la seconda c'era già un certo accordo di tutte le forze sociali, politiche, per fare la patrimoniale. La riforma delle pensioni si è fatta in maniera molto pesante e ancora gli effetti non sono ben compresi da tutti quelli coinvolti. Della patrimoniale siamo ancora in alto mare, ma soprattutto, grazie a queste trasmissioni, manca ancora, secondo me, il contributo di chi sa veramente le cose. Io ho avuto la possibilità di parlare con il ministro Fornero, io sono un cittadino qualunque, non sono coinvolto in nessuna associazione o partito. Mi è stato detto questo, che tecnicamente la vera patrimoniale non si può fare perché in Italia non c'è un meccanismo di per tracciare i patrimoni. Quindi credo che stiamo parlando di aria fritta, se non vogliamo ridurre questa patrimoniale a quello che hanno detto i colleghi in precedenza, cioè la solita tassa in più sulla casa, sulle altre cose, insomma, ecco, questo è il discorso. Quindi tecnicamente grazie. Non si può fare, perché non c'è un database, mi lasci dire, dei patrimoni, e quindi stiamo parlando di aria fritta. Grazie Marcello. Farei rispondere a Boccia a questo punto, che è stato parlamentare fino adesso. Mi sembra che in realtà non è che ci fosse una possibilità di fare la patrimoniale con questa maggioranza, insomma, con la cosiddetta strana maggioranza da una parte, e dall'altra parte, insomma, sulla questione della tracciabilità dei patrimoni, è proprio per questo che si sta pensando eventualmente ad alzare la tassazione sulle case di maggior pregio, no? Boccia? Pronto? È caduta la linea o chissà che altro. Dunque, noi ci prendiamo una breve pausa, poi abbiamo molte altre telefonate. Non siamo riusciti a reperire Nicola Rossi, che insomma, tra l'altro, doveva essere ospite, ed era un altro elemento importante, proprio perché la famosa Agenda Monti prevede e parla di patrimoniale. Altre telefonate subito dopo la pausa. Le 9:30 minuti, dunque riprendiamo. Adesso vedremo appunto se riusciremo a recuperare Francesco Boccia o se ha deciso, evidentemente aveva anche un treno, quindi può darsi anche semplicemente sia caduta la linea e magari sono maligno io. Luca ci chiama da Bologna, buongiorno Luca. Buongiorno a voi, e probabilmente il signor Boccia è andato a trovare qualche nuova forma di tassazione per gli italiani, tanto per cominciare un po' polemicamente. Io volevo esprimere solamente il mio profondo rammarico per l'occasione perduta che è stato il governo Monti, perché ha fatto quello che chiunque di noi sarebbe stato in grado di fare, cioè di porre solo delle tasse. La cosa sconcertante è come Monti adesso si professi liberista e si voglia presentare come uno che non ama le tasse. Questa è veramente, come dire, vecchia politica di quella becera che non fa i conti con i numeri e con le condizioni dell'Italia. Condizioni dell'Italia che comunque anche il Boccia di prima ignora, evidentemente. Ho finito, grazie. Grazie. Allora, poi riandremo da Boldrini e gli chiedo scusa, lo faccio attendere ancora un attimo perché abbiamo recuperato Francesco Boccia. Temevo per il peggio, insomma. Allora, Boccia, paio di questioni che sono state poste dagli ascoltatori, ossia il fatto che insomma che si ipotizzasse già dall'inizio del governo Monti una patrimoniale non sia mai stata fatta, ma forse le condizioni di questa maggioranza non lo consentivano, e dall'altra parte la questione della tracciabilità dei patrimoni, di quanto i patrimoni siano tracciati in Italia. Forse è per questo che state pensando in realtà una maggiore imposizione sulla casa, proprio perché insomma beccare i patrimoni non è così facile tutto sommato. No, guardi, noi non pensiamo ad una maggiore imposizione sulla casa, lo ribadisco, non è nella proposta del Partito Democratico, noi pensiamo ad un riequilibrio, ad una redistribuzione, che è un'altra cosa, come tema principale per noi, abbassare il carico di imposizione fiscale sul lavoro e aumentarlo sulle rendite. Noi vorremmo vivere in un paese in cui l'aliquota più bassa sui redditi è del 20%, non è quello finanziario del 23, non del 20, perché viviamo in un paese in cui un operaio guadagna. Niente, lo stiamo perdendo purtroppo, come avete capito è una questione di treno. Michele Boldrin, io naturalmente la prima cosa che le chiedo è di rispondere a Boccia, che è stato molto duro con lei, apparentemente anche con me, ma insomma io forse me la sono già cavata, prego. Ma guardi, se lei mi lascia io invece lascio fare, i commenti di Boccia si commentano da soli, chi non sa cosa dire fa polemica gratuita. Io, se non erro, poi ci sarà il podcast, mi ricordo che lei all'inizio aveva chiesto che parlassimo di come ridurre le tasse e mi sono detto, che non ci sia una sola maniera per ridurre le tasse, bisogna ridurre le spese, poi vediamo quali tasse ridurre, ma va benissimo. Evidentemente a lui interessava un titolo di Panorama, non so, non leggo Panorama, ci scrivo ogni tanto, ma io vivo all'estero, quindi non arriva. Ma veniamo al tema, credo che l'ascoltatore, alcuni degli ascoltatori che hanno chiamato abbiano colto il punto. basta. Il punto è che in Italia oggi, in questo momento, il problema fondamentale, numero uno, per chi lavora e produce e compete nel settore privato, per chi non è sussidiato, è che gli riducano le tasse, perché altrimenti con questa tassazione chi la paga viene massacrato. Questo a parole sembrano riconoscerlo anche gli esponenti del Partito Democratico e gli altri partiti, poi nei fatti non lo fanno. Allora Boccia ha detto che il PD ha approvato questo e quello. A me sembra che la tassazione, forse vorrei, mi corregga lei se sbaglio, forse qui dove sono io i numeri esatti non arrivano, la tassazione in Italia si è aumentata e anche la spesa pubblica si è aumentata sotto il governo Monti, che è l'ultimo che il PD ha appoggiato. Quindi, che io sappia, i tagli della spesa non ci sono. Ma poi, ripeto, io vorrei sapere che tagli della spesa si intende fare. Le faccio un esempio banale, simbolico, però serve un buon punto di partenza per dare l'idea agli italiani che si fa sul serio. In Italia, se noi ricalibriamo, semplicemente ricalibriamo i costi, nel senso degli emolumenti e le spese associate, dell'alta dirigenza statale. Quando parlo di alta dirigenza statale parlo dal segretario del Consiglio Comunale, che so, di San Vito al Tagliamento, che è un signore che si porta a casa 120.000 euro all'ordine all'anno, più altri X che non sono riuscito ad accertare, perché fa il segretario comunale in un secondo paese e poi fa anche il sindaco in un terzo, al segretario generale del Quirinale, passando per i vari Mastro Pasqua, che invece ne portano a casa 1.200.000, riusciamo a risparmiare. Se lo ricalibriamo a livelli spagnoli-tedeschi, controllando per il PIL, riusciamo a risparmiare quasi un punto di PIL, che sono 16 miliardi che poi possiamo togliere di IRAP. Ecco, questa è un'operazione di scopare in maniera relativamente facile, non affama nessuno, nel senso che passiamo da redditi di 1.200.000 a un reddito di 200.000, quel signore che prende 200.000 poi sta comunque bene, visto che riesce a farlo il suo analogo spagnolo tedesco, il suo lavoro, e risparmiamo un puntino di PIL. A me sembra che né questo governo né le proposte che vedo sul tavolo facciano un suggerimento del genere. Ecco, io lo faccio, noi lo facciamo, che non sia fattibile, che non si possa fare rapidamente. Le faccio un secondo esempio. Perfino il presidente di Confindustria, finalmente, dopo decenni che persone come me lo dicono, ha detto: ma sentite, noi questi sussidi alle imprese, se poi volete, magari ci rinunciamo se ci togliete IRAP e qualche altra tassa. Cosa hanno fatto? Se non sbaglio, hanno chiesto a caro collega Francesco Zavalli di fare un report. Lui l'ha fatto in 448, perché i calcoli su come tagliarle, questi sussidi che poi vanno a un gruppo molto ristretto di imprese, quasi tutte di Stato, si sono fatti ormai da decenni. Se non sbaglio, quel report è nel cassetto. E se non sbaglio, stiamo parlando, a seconda di dove vogliamo mettere il dito, di cifre fra i 15 e i 30 miliardi di euro, cioè fra un punto e due punti, forse anche di più di PIL, e fanno tre punti. Ecco, a mio avviso la pressione fiscale si abbassa così, tagliando le spese. Dove voglio tagliare la pressione gliel'ho già detto, quindi sì. Se vuole lo ripeto. Redditi da lavoro, redditi da lavoro uniformemente. Assolutamente, e reddito da lavoro uniformemente e IRAP per cominciare, poi andiamo avanti. La fermo Boldrin, e le ribadisco di tenere la bocca un po' più lontana dalla cornetta del telefono. Abbiamo molte telefonate, sentiamo innanzitutto Andrea dalla provincia di Pesaro, buongiorno. Buongiorno, premesso che dopo aver oscillato nei 30 anni in cui ho votato in varie formazioni politiche, mai a sinistra, devo dire che mi sono iscritto con grande entusiasmo al movimento del professor Boldrin e di Giannino. Detto questo, io sono abbastanza deluso, visto che ho 52 anni e da 25 faccio l'agricoltore in un territorio anche difficile, insomma, dal punto di vista idrogeologico, come quello del Monte Feltro, della collina quasi montagna pesarese. Io non ho mai sentito parlare nessuno di risorse agricole in questo paese, mai, in campagna elettorale che è cominciata ormai da un tempo. E soprattutto volevo dire che uno dei motivi per cui, insomma, noi agricoltori, anche quelli che forse potevano fare prima, ormai no io, ma insomma qualche anno fa anche qualcos'altro, abbiamo scelto di fare gli agricoltori per passione certamente, non certamente per arricchirci, perché lo sapevamo già da subito come sarebbe andata, ma anche perché siamo amanti molto tutti, salvo quelli che vivono di contributi e basta, del nostro territorio, dei nostri campi. Allora il fatto che esistano delle categorie dimenticate come la nostra di agricoltori in un paese in cui il dissesto idrogeologico, oltre a esistere, a portare via ogni tanto vite umane con tragedie annunciate, è anche una delle fonti di costo per la collettività più spaventose, certamente io non sono un economista, ma qualcuno avrà fatto anche i conti, e permettere che gli agricoltori debbano vivere soltanto miseramente solo di contributi pubblici, senza dargli in mano la gestione vera del territorio, cosa che sarebbe come dire, molto utile proprio per ridurre l'impatto delle avversità ambientali, sì. Io penso che sia un errore. Penso che qualcuno si dovrebbe ricordare, a partire dal movimento a cui io ho aderito volentieri. Mi sembra che questo sia il caso, la interrompo Andrea perché insomma sta andando un po' lungo, mi sembra che questo sia il caso più che altro di riqualificare la spesa, cioè nel senso continuare a dargli questi sussidi, però darli in cambio di qualcosa. Michele ci chiama dalla provincia di Caserta, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Anzitutto saluti a tutti, buon anno, e a proposito, mi sente? Perfettamente. Pronto? Perfettamente, vada okay. Pure. A proposito della patrimoniale, il problema è stabilire l'asticella. Io non mi scandalizzo, sono un pragmatico, quindi voglio che in campagna elettorale tutti mi dicano, da Monti a Bersani, qual è l'asticella, 1 milione, 2 milioni. Io vivo del mio stipendio, sono tassato al 43%, guadagno abbastanza bene, ho messo da parte dei soldini, ho risparmiato, ho comprato casa, mi dispiacerebbe essere un'altra volta tassato per un appartamento di proprietà su cui paghi il mutuo. E quindi ben venga una patrimoniale se è soltanto per i ricchi veri, non per me che ho comprato casa. L'altro punto fondamentale, se si parla di patrimoniale, anche lo Stato, che è il primo debitore, dovrebbe mettere in campo del patrimonio e venderlo, non i gioielli di famiglia, parlo dell'ENI, dell'ENEL, ma caserme, palazzi abbandonati, palazzi delle province che sono disabitate. Se volete, anche qui in Caserta vi farei un elenco di almeno 100 milioni di euro di patrimonio vendibile. Ecco, sì. Però chiarezza sull'asticella della patrimoniale, per piacere, e sui beni da vendere, cosa che Monti non ha assolutamente fatto, anzi ha aumentato il debito il signor Monti, ecco. Chiarissimo, chiarissimo, e devo dire che da questo lato, al lato della vendita del patrimonio dello Stato, un procedimento è in atto oggettivamente. Abbiamo recuperato Francesco Boccia, al quale, visto che siamo sul tema patrimoniale, voglio chiedere se è ipotizzabile, secondo lui e secondo il suo partito, quindi invece una patrimoniale non sui valori immobiliari ma su quelli immobiliari. Sui patrimoni intesi come insomma soldi, investimenti finanziari. No, guardi, noi siamo più interessati a ridistribuire il carico, come dicevo prima, vorremmo che le rendite fossero adeguate alla media europea, che è del 25,5%, in Italia in questo momento sono al 20% e i titoli di Stato al 12,5%, mentre, come ricordava l'ascoltatore che è appena intervenuto, le imposte sui redditi sono molto più alte, quella più bassa, addirittura l'aliquota più bassa è al 23%. Un operaio, un funzionario, un impiegato che guadagna 20.000 euro paga il 23% di imposta, 20.000 euro l'anno, chi ha 20 milioni di euro paga a rendite finanziarie per il 20%, mi dica lei se questo è un paese equo. Almeno sulle rendite finanziarie vorremmo che si arrivasse alla media europea, e tutto quel gettito vorremmo che rigorosamente andasse all'abbassamento delle imposte sul lavoro. Questa è la proposta del Partito Democratico, che ha già presentato in Parlamento in questi anni ed è sempre stata respinta, prima da Tremonti e poi dal ministro Grilli e dal presidente Monti nell'ultima legge di stabilità. C'era una proposta del PD presentata dalla presidenza del PD alla Camera che è stata respinta da Monti. Ecco perché chiediamo che non si faccia demagogia sulle imposte. Noi vogliamo redistribuire, non vogliamo tassare, vogliamo semplicemente alleggerire alcuni carichi, soprattutto quelli che fanno riferimento al lavoro e all'impresa. Mi sembra chiarissimo. Ci diceva l'ascoltatore prima, un altro ascoltatore che ci ha telefonato, e volevo una risposta da lei sempre su questo. Dice insomma, in realtà una serie di patrimoniali esistono già, insomma, a partire da quella TARES della quale abbiamo parlato, la nuova imposta sui rifiuti, che un'imposta che di fatto va sulla misurazione dei metri quadri, passando per insomma mille altre cose, conti correnti, depositi titoli, insomma strumenti finanziari. Insomma, c'è da fare un riequilibrio anche da quel lato, forse? C'è dubbio, lì è necessario un regolamento ministeriale, mi auguro esca al più presto, perché deve consentire di tassare in base al tipo di sacchetti spazzatura che noi, esattamente come capita in molti altri paesi in giro per il mondo, che non è possibile tassare per i metri quadri, perché se poi quella casa è chiusa o addirittura ci vive una persona e non cinque persone, è folle che il carico fiscale sia così alto. E dipenderà molto anche dai sindaci, da come sono organizzati. Ci sono già in molte città questo carico è organizzato a prescindere dalla normativa ordinaria, nel senso che in molte città si paga in funzione non solo del valore della casa, del valore del quartiere, ma dei componenti del nucleo familiare e del reddito che compone quel nucleo familiare, il reddito aggregato del nucleo familiare. Bene, noi adesso abbiamo la viabilità e abbiamo ancora molti altri ascoltatori da sentire. Sentiamo cosa succede prima di tutto su strade e autostrade. Ed eccoci di nuovo a parlare di patrimoniale, a parlare di fisco con molte telefonate in diretta. Mi sembra che la persona che fosse in attesa da più tempo è Elena, che ci chiama da Genova. Buongiorno Elena. Sì, buongiorno. Prego. Io sentivo il vostro programma e lo sento tutti i giorni perché mi piace tanto. E però per le case è bello fare tutti questi discorsi, ma la cosa principale è cominciare a ordinare i catasti. Il catasto, almeno quello che conosco io, è in confusione, non sanno neppure quanti metri quadrati abbiamo in casa, neanche l'atto notarile mi dà i metri quadrati, mi dicono sono sei vani, sono sei buchini, ma un conto, vivo da sola, quindi mi possono anche bastare, però mi possono bastare a crescere, quando vengono i nipoti ho bisogno di tutto, però il problema è che un conto avere 60 metri quadrati e 6 vani e un conto avere 6 vani e 200 metri quadrati, secondo me non va bene, non è la stessa misura. Quindi per fissare l'asticella, come diceva uno dei vostri interlocutori precedenti, bisogna che il catasto sia in ordine, sappia su che cosa lavora. Quello mi sembra naturale. Enzo ci chiama da Roma, buongiorno. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. Sì, abbiamo sentito una voce femminile, ma insomma, era una strana interferenza. Prego. Senta, io a proposito della patrimoniale, ritengo, a mio punto di vista, che si può partire da un limite della rendita catastale complessiva che un possidente ha. Cioè a dire, se per ipotesi ha un totale di rendita catastale oltre i 50.000 euro, si applica la patrimoniale. Ma questo è un argomento che può essere approfondito in altre occasioni. Quello che adesso volevo mettere in evidenza, forse è un argomento che esula dall'argomento in discussione, cioè a dire, ma le cause per le quali l'Italia si sta trovando in questa situazione, ma sono state mai messe in evidenza? Vede, con la mia età io ricordo che negli anni 50 e 60, dopo la guerra, l'Italia aveva fatto dei progressi enormi. Tant'è vero che c'era un beneficio, si può dire, in tutta la generalità delle famiglie. Dagli anni 70 in poi sono cominciati i disastri. Primo, con la nazionalizzazione dell'energia elettrica, che hanno voluto comprare le varie industrie elettriche e ci sono state delle enormi spese. Tant'è vero che adesso ho sentito dire che addirittura si vorrebbe rivendere l'Enel. Primo punto. Secondo punto, la spesa più grossa è stata quella della istituzione delle regioni. È vero che è previsto dalla Costituzione, ma quanto ci vengono a costare queste regioni e quale risultato danno? Quali sono i loro punti? No, mi sembra chiarissimo, Enzo, almeno le basi di quello che sta dicendo. Insomma, abbiamo molti ascoltatori in attesa all'800240024 e quindi la interrompo perché il tema appunto è i tagli di spesa, non male. Ci state seguendo anche su Twitter con l'hashtag 9 in punto, la battuta di Stefano Cattone che scrive comunque io vorrei capire chi le compra dallo Stato le caserme abbandonate, non male. Sentiamo anche Alberto che ci chiama da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie per lo spazio che mi avete consentito. Io ho 67 anni, sono un uomo di destra dalla nascita e sono veramente... Dalla nascita addirittura, Alberto, sì, cioè iscritto nel DNA. Come funziona? La destra sana, la destra sociale, e sono veramente nauseati, veramente schifati, perché siamo arrivati a un punto tale di, secondo me, di assurdo. Il popolo italiano secondo me non esiste, perché la responsabilità di tutto quello che sta succedendo da 25 anni, dove non si fa politica, perché politica è una cosa seria, ci vuole gente preparata, capace di fare il bene del cittadino. E invece purtroppo qui si va solo per lobby o per opportunismo. Le faccio un esempio. Abbiamo 8.000 comuni in Italia. Si parla di eliminare le province. Abbiamo 8.000 comuni, io sono bergamasco, se prendiamo le nostre valli, nell'arco di 2 chilometri abbiamo 3, 4, 5, 20, 30 comuni che riunendoli assieme non raggiungiamo i 5.000 abitanti. Abbiamo 30 sindaci, 250 consiglieri, 5 assessori, un bambino che nasce ogni 5 anni e pensi allo spreco in Italia. Sì. Lei pensi all'associazione dei comuni, lei pensi all'associazione delle province, l'unione e l'associazione delle camere di commercio. Ma è una cosa assurda, veramente. La questione, sono d'accordo, tra l'altro la questione dell'accorpamento dei comuni è una questione che è stata trattata in questa trasmissione, per chi se lo ricorderà, proprio da Oscar Giannino. Se andate nei nostri podcast, nei nostri archivi su www.radio24.it, sicuramente ne troverete e ne troverete i dettagli. Boldrin, questo è un altro punto, naturalmente, perché qua si parla di tagli di spese, insomma, questo mi sembra forse uno degli elementi centrali, direi quasi. Lei mi deve cercare di far capire cosa intende per elemento centrale, davvero è una domanda che le rivolgo. Un elemento importante quantomeno, insomma, nei tagli di spesa, perché in genere, insomma, la vediamo solamente come, no, viene visto il taglio di spesa a volte da alcune parti, non solamente politiche ma anche sindacali, come fumo negli occhi, mettiamola così. In questo caso, mentre invece ci sono magari operazioni un po' più semplici come l'accorpamento dei comuni che potrebbero portare dei risparmi notevoli, ecco, mettiamola così, questo dico. Ah, certo, ma guardi, questo è il discorso che vedo fare da molti continuamente, che poi però non fanno mai, questi famosi tagli dovuti a guadagni di efficienza. Allora qui sarò molto esplicito e approfittato del signore che ha introdotto la questione regioni. Il problema non è quanto le regioni ci sono costate, alla fine le regioni in parte svolgono quasi tutte le funzioni che sarebbero comunque attribuite allo Stato centrale, in particolare sanità e trasporti. Quindi il problema forse che dovremmo porci è quanto ci costano sanità e trasporti, li gestiamo in una maniera adeguata. Però il vero ragionamento da fare, questo vale soprattutto per l'accorpamento dei comuni e delle province, è un altro, ed è: dobbiamo costruire dei meccanismi di incentivo perché queste entità abbiano il desiderio di accorparsi. E allora, vede, qui il ragionamento finisce per forza sul federalismo. Perché lei mi insegna, gli incentivi mediamente funzionano meglio degli obblighi, insomma. Non è... Ma sì, anche perché poi bisogna che i cittadini stessi trovino interessante, desiderino vedere che il loro comune di 1200 abitanti si accorpa con gli altri tre vicini di 801, 1200 quell'altro, per fare un comune di una dimensione leggermente più ragionevole, con riducendo i costi. Allora, come bisogna farlo? L'unica maniera per farlo, e mi rendo conto che l'esperienza della Lega sia stata così tragica che parlare oggi in Italia di federalismo fiscale la gente si vergogna, però bisogna avere questo coraggio. Noi questo coraggio ce l'abbiamo, io ce l'ho almeno, e sono qui a riportarlo. Occorre ricominciare a pensare al federalismo, che vuol dire che cosa? Vuol dire che, fatto salvo un elemento redistributivo che decidiamo una volta per tutte a livello centrale, dipende dai livelli di ricchezza vera delle varie aree del paese, poi costruiamo un sistema fiscale in cui le entità locali si mantengono tassandosi, cioè tassando i loro cittadini. Allora lei, se così facciamo, lei vedrà che le persone che soffrono di una tassazione particolarmente alta, per esempio sugli immobili, non tanto perché il comune offre tanti servizi, ma perché è un comune microscopico, con spese gigantesche rispetto alla dimensione, forse troveranno interessante spingere perché appunto si attua il processo di accorpamento. Io facevo questo esempio, per esempio, recentemente in un incontro a Belluno. Se uno conosce un po' la geografia d'Italia, si rende conto che in molte valli montane lei incontra nello spazio di una valle di 15, 20, 30 chilometri mezza dozzina, a volte una dozzina di comuni, ognuno molto piccolo. Se pensa a quello che questi comuni fanno, scuole, trasporti e pulizia urbana, eccetera, nettezza urbana della zona, sarebbe naturalissimo vedere che si accorpino. La ragione per cui sono tutti così separati è puramente campanilistica antica. Ecco, come lo si risolve questo? Gli si crea l'incentivo nella maniera che le dicevo. Vengo all'agricoltura. c'era un ascoltatore prima, a me piace cercare di dialogare con la gente, non ho il comizio pronto, quindi se lei mi permette parlo un po' di quello che le chiedo di essere breve, che siamo più o meno a ridosso della chiusura, insomma, mi dica quanto e mi attendo. Direi un minuto e mezzo massimo. Ma guardi, allora sull'agricoltura io le dirò, sì, forse gli incentivi vanno spesi meglio, però la cosa da fare, noi di agricoltura ci occupiamo, anzi uno dei nostri candidati in Toscana è molto spinto, si è molto impegnato su quell'argomento. A me sembra che per l'agricoltura italiana e non per l'agricoltura europea in generale sia il caso di passare da una politica di sussidi a una politica di concorrenza, favorendo e lasciando che le imprese agricole efficienti crescano e assorbano anche quelle inefficienti, ed evitando di continuare a mantenere a botte di sussidi statali a politiche imprese agricole inefficienti. Vale in agricoltura quello che vale negli altri settori. Poi che ci sia necessità che questo paese cominci a fare una politica del territorio diversa, sia meno dispendiosa, sia più attenta appunto alle necessità produttive dell'agricoltura, sono anche d'accordo, però mi sembra che lì il punto di partenza sia veramente di passare da una politica di sussidi, specialmente a livello europeo, a una politica di competenza ed efficienza. Finalmente torno un po' da campagna elettorale, se permette, ma davvero bisogna dirlo. Lei ha iniziato questa trasmissione dicendo come tagliamo le tasse, e io al momento, sarà che gli altri sono venuti, gli è caduta la linea, sarà quel che sarà, ma di proposte di che tasse tagliare non ne ho sentite. Ho sentito dire, e chiudo, che occorre usare le tasse per ridistribuire, in parte, personalmente, e l'esperienza lo prova, a cercare di ridistribuire molto attraverso le tasse è abbastanza impossibile, si ridistribuisce solo in una maniera, permettendo la crescita ed eliminando monopoli e posizioni di rendita. Le rendite non sono facili da tassare, ma vanno certamente tassate. La cosa invece che è praticamente possibile fare è eliminarle generando concorrenza. La interrompo, grazie a Michele Boldrin, economista, cofondatore di Fermare il Declino, grazie anche a Francesco Boccia, che probabilmente non ci sente più perché è in treno del Partito Democratico. Le mie scuse a Gaetano, che ci ha chiamato da Catanzaro ed è in linea da parecchio tempo, a Angelo da Bergamo e Marco da Firenze. I miei ringraziamenti a Rosa ed Eleonora al centralino, visto che stiamo parlando delle telefonate, Laura Faggini in redazione, Filippo Aureggi in regia. Una buona giornata, ci risentiamo lunedì con 9 in punto. Se volete, domani alle 9, dopo il GR delle 9, sono in onda con Votantonio, la trasmissione che si occupa di social media, di rete e di politica.